Cosa hanno in comune dei falangiti macedoni, a seguito di Alessandro Magno, dei soldati dell'esercito di Napoleone ed è un gruppo di scout? Non ne ho assolutamente idea. Non è una barzelletta, ma è l'origine di una leggenda metropolitana, anzi di più leggende metropolitane abbastanza diffuse. Tutti questi gruppi di sciagurati avrebbero deciso di fare un allegro picnic prendendo dei ramoscelli dalla pianta di cui parliamo oggi. Purtroppo l'effetto sarebbe stato assolutamente tragico, quindi falangiti, soldati e scout annientati da questa pianta. L'albero di cui parliamo oggi è l'oleandro. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questa è In Sala Pianta. Benvenuti. Bene, oggi partiamo allora da questa leggenda metropolitana che vuole questi giganteschi eserciti annientati, o almeno gruppi di essi, annientati dall'utilizzo irrazionale di questa pianta che oggi scopriremo essere quanto velenosa in fin dei conti. In particolare sappiamo che deluderemo sicuramente i fan dell'uomo non così basso rispetto alla media dell'epoca, in quanto oggi non parliamo di Napoleone, ma faremo sicuramente felicissimi tutti gli appassionati di Alessandro Magno. Infatti la sua vita è stata breve ma estremamente significativa per la storia mondiale e in particolare ha qualcosa da dire anche sulla pianta di cui parliamo oggi. Velocemente, un ripasso per chi è all'ascolto: Alessandro Magno in Macedone era figlio di Filippo di Macedonia e Filippo II di Macedonia, e quando questo viene assassinato da una congiura di palazzo nel 336 a.C. prende il posto del padre alla guida del regno del nord della penisola ellenica. Questo giovane era stato educato da uno dei filosofi più famosi dell'epoca, Aristotele. Aveva un'intelligenza incredibile, un fascino eccezionale e soprattutto era apprezzato dall'esercito perché non perdeva tempo e si dimostrava valoroso in ogni battaglia. In particolare è da ricordare il fatto che si è sempre portato a superare qualsiasi limite, sia politico sia geografico. È sempre stato guidato da questa brama di potere, ma anche e soprattutto uno spirito di avventura e un animo inquieto, che voleva vedere sempre di più. Quando sale al trono ha solo 20 anni, e le città della Grecia sono decise a riprendersi la propria indipendenza. Atene e Tebe guidano la ribellione, ma Alessandro ha in mente che cosa fare. Assedia la città di Tebe, la conquista e la rade al suolo. 20.000, anzi 30.000 persone fanno una fine tragica. Molti perdono la vita, altri sono venduti come schiavi. Ma Alessandro credeva che bastasse questo per educare all'obbedienza tutti i greci e difatti ha fortuna. Esattamente come pensava. Tutti i delegati della Grecia quindi si riuniscono a Corinto e tutti d'accordo danno al giovane Macedone il comando della spedizione che si sarebbe intrapresa da lì a poco verso i nemici di sempre, contro il potente impero persiano. Alessandro allora nel 334 è pronto ad attraversare l'Ellesponto, lo stretto dei Dardanelli per intenderci, dove è l'odierna Istanbul, o per gli affezionati Costantinopoli. Dunque, Alessandro raduna un'armata decisamente potente all'avanguardia per l'epoca. Solo il corpo principale ha più di 30.000 fanti e più di 5.000 cavalieri, ma oltre ai soldati raduna anche un insieme di esperti, di tecnici, gente anche che non doveva combattere ma fare qualcosa di altrettanto importante, se non di più. Sicuramente infatti riunisce responsabili per le macchine d'assedio, quindi ingegneri, e ancora responsabili per il convoglio dei bagagli, che dovranno appunto assicurarsi le linee di rifornimento, la logistica, ingegneri per costruire strade, gallerie, per permettere alle truppe appunto di attraversare i vastissimi territori che avevano davanti a sé, e ancora chiama capaci esploratori in grado di individuare i tragitti migliori, dove piazzare gli accampamenti e dove eventualmente ingaggiare battaglia, e ancora segretari, amministratori, medici, perché in una guerra è sempre opportuno avere qualcuno che sa dove mettere le mani, e ancora stallieri e personale appunto per gli accampamenti. Oltre a tutti questi tecnici, è il primo, a meno che naturalmente non ci abbia già pensato qualcun altro, ma noi non lo sappiamo, quindi è il primo a creare un vero e proprio dipartimento per le pubbliche relazioni, un PR, potremmo dire, e inoltre chiama anche uno storico ufficiale, un allievo di Aristotele, Callistene, che si occupa appunto di redigere un resoconto di quello che sarebbe accaduto, ma evidentemente era anche a capo della propaganda, come spesso purtroppo accade. In totale, quindi, considerando anche la flotta che aveva al suo comando. Si parla infatti di qualcosa come 180 triremi, che sono le navi da guerra dell'epoca, arriva ad avere sotto i suoi ordini circa 90.000 uomini, che sono un bel po', ed è più o meno la stessa quantità di gente che di circa un secolo prima, poco più di un secolo prima, il grande re di Persia, Dario, si era portato nella sua spedizione invece contro i greci. Quindi diciamo che avevano usato la carta da uno in modo da invertire il giro, ecco. Dunque, oltre a tutto questo personale, ai fini della discussione di oggi, di questa chiacchierata di oggi, bisogna segnalare che Alessandro raccoglie intorno a sé anche un gruppo di botanici, di biologi, di geografi e di zoologi, e tutti questi raccolgono informazioni e le spediscono costantemente in Grecia, soprattutto ad Aristotele, che aveva infatti trasmesso ad Alessandro la conoscenza, l'idea che per avanzare nel sapere umano bisognasse innanzitutto riunire le informazioni, quindi raccogliere informazioni, osservare e fare appunto esperimenti. Quindi questo è un insegnamento che sicuramente si porterà a lungo con sé Alessandro, del proprio maestro. Quindi questa squadra di studiosi spediva costantemente informazioni ad Aristotele e probabilmente è stato un contributo fondamentale per una delle opere di questo grande filosofo, Le indagini sugli animali, poi nota col nome latino Historia Animalium. Infatti molte informazioni sulla fauna e sulla flora locale derivano appunto da questi studiosi. Alessandro stesso era un grande amante degli animali e questo sicuramente può lasciare una luce positiva sul personaggio. In particolare era molto affezionato al celeberrimo ormai cavallo bucefalo, che fin da piccolo era riuscito a domesticare, a domare. Vale la pena raccontare questo aneddoto? Nessuno riusciva a domare questo cavallo e il padre era deciso a rimandarlo indietro dal mercante. Ma Alessandro lascia tutti di sasso quando esordisce con una frase di questo tenore: che magnifico cavallo perdete a causa della vostra inesperienza. E il padre giustamente gli dice: se prima di insultare gli altri, prima di offendere gli altri, assicurati di essere tu capace di fare quello per cui motteggi la gente molto più grande di te. E Alessandro non perde tempo, sale sul cavallo, non prima però di avergli diretto il muso verso il sole. Infatti si dice che Bucefalo avesse terrore solo di una cosa, della sua ombra. E quindi dirigendolo verso il sole, non vedendo più l'ombra, si sarebbe fatto appunto addolcire e pronto appunto a farsi guidare dal giovane principe. In particolare, dopo questo exploit, Filippo avrebbe detto al figlio: figlio mio, cercati un regno che meriti di averti come sovrano, in quanto la Macedonia è troppo piccola per te. Bucefalo seguirà Alessandro in ogni battaglia, dalla prima battaglia, quella di Cheronea, in cui Alessandro è ancora un giovane principe, fino all'India. E quando l'animale ormai stremato respirerà, Alessandro gli farà un grande saluto, un grande funerale, e dedicherà una città nel nord dell'India proprio a questo suo cavallo. E non era l'unico animale che lui amava. Infatti abbiamo anche notizie di un cane, un cagnolone, di nome Peritas, alla quale Alessandro era molto affezionato. Contrariamente alla fisionomia dei molossi e pirotti, comunque della penisola, doveva essere piuttosto scattante, piuttosto agile, in quanto era in grado di seguire i cavalieri appunto e le loro spedizioni. Quindi immaginati Alessandro con la sua scorta di cavalieri seguito da questo cagnolone che lo segue ovunque. E anche quando Peritas purtroppo viene a mancare, sempre nel nord dell'India, Alessandro gli dedica una città in suo onore. E ancora aveva dato ordine a tutti i cacciatori, tutti i pescatori, tutti gli allevatori dei territori che attraversava di mandargli costantemente notizie delle nuove specie che venivano scoperte. E in particolare dei pavoni rimase estremamente affascinato e fece proprio una legge nella quale imponeva che chiunque fosse trovato con le mani nella marmellata, quindi a far del male al povero pavone, venisse punito in maniera esemplare. Quindi questo è estremamente significativo. Tutte queste conoscenze, questa sapienza che riunì, fecero sì che l'Occidente si aprisse estremamente alla cultura, alle tecniche, alla scienza orientale e anche fece fare degli enormi passi avanti per quel che riguarda la scienza. Velocemente torniamo quindi alla nostra spedizione. Alessandro ha attraversato lo stretto che lo separa appunto dalla sua destinazione e inizia ad ingaggiare battaglia contro gli eserciti che il re dei re, Dario III, gli manda incontro. La battaglia del fiume Granico è un successo per i Macedoni e dopo aver liberato le città della Ionia, queste città greche dell'odierna Turchia, potremmo dire, Alessandro prosegue. E qua possiamo raccontare un'altra aneddoto, un'altra leggenda. Si dice che in una località, a Gordio, ci fosse un nodo estremamente saldo che legava un carro per buoi, con il quale un re locale molti secoli prima sarebbe entrato in città, a un palo. E la leggenda voleva che chiunque fosse riuscito a spezzare questo nodo sarebbe diventato re di tutta l'Asia. Alessandro non perde tempo, sciabola la sua spada, spacca il nodo e quindi di fatto l'ha sciolto. E perciò sarebbe diventato sicuramente re di tutta l'Asia. E la sorte poi l'avrebbe sicuramente arriso, accontentato almeno in questo. Dopo aver vinto anche la battaglia di Isso, invece di inseguire il re dei re Dario III, del quale di fatto aveva però rubato, intascato il grandissimo tesoro e preso come prigioniere, sebbene trattandole con tutte le onori, la moglie e le figlie del re, anche la madre, decide di distruggere, o meglio, annettere le basi della flotta persiana, quindi costeggia la Siria, il Libano, e conquista tutti quei territori, ed entra poi in Egitto, e occupa la regione senza colpo ferire. Addirittura i sacerdoti locali si fanno incontro, acclamandolo discendente dei faraoni e anche figlio di una divinità locale, molto potente, Ammone. Infatti, da quel periodo Alessandro inizierà a essere ricordato come Magno, quasi quindi grande, divinizzandolo. E interessante come disegna la cartina, o meglio la piantina, della futura città di Alessandria, Alessandria d'Egitto, sul Nilo, una delle tante città che porterà il suo nome. Disegna infatti la pianta utilizzando, non aveva né gesso colorato, bianco, né terra utile, terra bianca, e quindi utilizza la farina locale. E centinaia di uccellini si precipitano poi su questa piantina, nel momento esatto in cui lui la finisce, naturalmente secondo la leggenda, e questo sarebbe stato letto come segno appunto di buona sorte. Alessandro diventerà sicuramente un faro di scienza, di conoscenza nei secoli a venire. E per appunto arrivare davvero per sommi capi, l'ultimo scontro contro Dario III, che nel frattempo aveva scongiurato il giovane Macedone di scendere a patti. Dario sarebbe stato disponibile a regalargli tutte le terre che aveva preso se lui si fosse fermato, ma Alessandro vuole tutto, vuole fare jackpot. Quindi continua, arriva a Gargamela e nel 331 sbaraglia le ultime resistenze. Dario III, il re, scappa, ma verrà assassinato da un suo satrapo. Dario III era un uomo gentile, un uomo nobile, ricordato dal suo popolo per la sua giustizia, il suo senso di giustizia e per la lealtà per la sua gente. Verrà onorato con appunto dei grandi funerali da Alessandro stesso, sicuramente per propaganda, ma non vogliamo negargli anche un senso umano non indifferente. In questo modo tutta l'impero persiano è nelle mani del Macedone, che sa che la sua capitale sarebbe diventata Babilonia, ma non si vuole ancora fermare. Arriva infatti in nuovi territori, attraversa l'Afghanistan, il Kashmir, tocca la Cina e poi scende verso la valle dell'Indo. E qui ingaggia un'ultima grande battaglia con un potente sovrano locale, un certo Re Poro. Ma dopo questa vittoria, dopo aver percorso 18.000 chilometri, i suoi veterani non vogliono più saperne di combattere e convincono Alessandro a tornare indietro. Farà quindi in modo che la maggior parte delle sue forze viaggeranno via nave, guidate dall'ammiraglio Nearco, mentre lui e un singolare corpo di uomini prenderà la via della terra verso Babilonia. Una volta a Babilonia, Alessandro si appresta a governare il suo vastissimo impero. Capisce che non ci sono abbastanza nobili macedoni che sanno tutte quelle lingue per governare tutti questi territori. Deve perciò appoggiarsi ai satrapi locali, ai signori locali. Inoltre vuole che greci, macedoni e persiani si fondano in un unico popolo. Lui stesso prenderà in moglie una figlia di Dario III e anche altre principesse persiane. Inoltre chiederà ai suoi veterani di prendere come spose delle principesse locali. In questo modo vorrà appunto unire le due culture. Nel frattempo sorgeranno centinaia, almeno decine, di nuove città in cui molti greci si trasferiranno e inizierà ad essere conosciuta la lingua greca fuori appunto dalla penisola ellenica. E parleremo dopo di questo grande fenomeno che è l'ellenismo. Ma prima che lui, che è questo profeta di unità, prima che il suo piano venga a compimento, a soli 33 anni, una terribile febbre malarica lo prende e lo porta via, lasciando quindi un enorme vuoto di potere. Quello che però non ha lasciato è la conoscenza sulle piante e la fauna del territorio che ha attraversato, tra i quali appunto l'oleandro. Esatto, e tra l'altro una cosa che ti stupirà dell'oleandro è che, allora, il nome scientifico Nerium oleander deriva pure dal greco. Nerium, Nero in greco significa acqua fresca, umido, e contrariamente a quanto molte persone si aspettano o sappiano o credano, Nerium oleander si chiama così proprio perché ama l'acqua e ama l'umido, mentre è una pianta che spesso vediamo usata come pianta tollerante alla siccità o che non la distruggi neanche con le bombe, però lui di fatto sta bene all'umido. Oleander invece non si capisce bene da dove arrivi, nel senso che potrebbero essere storpiature di Lorandrum, che deriva da Laurea, che è una storpia che significherebbe in latino alloro, unito a una storpiatura di Rhododendron, perché secondo qualcuno le foglie dell'oleandro assomiglierebbero a quelle del rhododendro, poi in realtà ci azzeccano ben poco, però le persone sono fantasiose. Un bel mix di parole. Esatto, ma la cosa veramente bella che può unire l'oleandro ad Alessandro Magno, sì, è il fatto che l'oleandro è originario del bacino del Mediterraneo e di tutta quella fascia di Asia che arriva esattamente all'India e alla Cina meridionale. Fantastico. Quindi esattamente, cioè tutta la parte di terreni, di territori occupati, esplorati da Alessandro Magno sono quelli effettivamente di cui è originario l'oleandro, che poi in virtù del suo aspetto è molto usato come pianta ornamentale, è stato poi coltivato in tutto il mondo e oggi è ovunque. L'oleandro appartiene alla famiglia delle Apocinacee, è una famiglia facilmente riconoscibile perché i fiori delle Apocinacee hanno 5 petali e sono, ogni petalo è inserito dentro l'altro a spirale, sono proprio, hanno questo motivo geometrico. E una Apocinacea molto comune che tutti conosciamo è il falso gelsomino, il Trachylospermum jasminoides, che è questo rampicante sempreverde che a maggio fiorisce, si ricopre completamente di fiori bianchi. È proprio quel rampicante che vediamo ovunque e profuma molto. E proprio i fiori, se noi li guardiamo, chiaramente non sono identici a quelli dell'oleandro, ma se noi paragoniamo un fiore di falso gelsomino e quello di oleandro, vediamo che la struttura è identica. Proprio hanno sempre i petali che girano uno nell'altro. Quindi se anche una persona avrebbe stranamente capitato col Messico, dal Messico mi manda la foto di una Apocinacea dicendomi che pianta è questa, io giustamente dici, oddio, non ne sa niente di flora messicana, però veramente aveva i petali da Apocinacea, quindi anziché cercare piante messicane dici cerco Apocinacee messicane e quantomeno hai dove parare, ok, è un po' più facile. Un'altra Apocinacea famosa è la Hoya, quel rampicante tropicale chiamate dei fiori di cera perché ha delle infiorescenze, dei capolini fatti un po' particolari, insomma, ricordano appunto dei fiori fatti con la cera. L'oleandro, appunto, viene da tutta quella fascia che abbiamo detto e quindi climi caldi, nel senso che il bacino mediterraneo chiaramente ha un clima caldo e poi tutta appunto l'Asia Minore, il Medio Oriente, l'India, eccetera. E in natura cresce proprio in zone assolate e in corsi d'acqua stagionalmente asciutti, quindi ha bisogno di acqua, è vero, resiste bene al secco proprio perché crescendo in corsi d'acqua stagionalmente asciutti, quando è asciutto se la cava lo stesso, è proprio, si è evoluto per crescere in quell'ambiente, però l'acqua gli fa bene, gli piace. Come è fatto l'oleandro? Sicuramente molti già lo conoscono, è un arbusto che arriva fino a circa 6 metri, ma anche di più volendo, è proprio molto poderoso, sempre verde, foglie lanceolate, quindi fatte a lancia, il che in realtà ci potrebbe forse unire sempre. Macedoni. Opache, e porta questi fiori a 5 petali, appunto, generalmente dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno, che sono bianchi, rosa, alcune sfumature di rosso, e poi sono stati selezionati anche giallo crema, vari fiori doppi, quindi di tutto e di più. E seguono dei follicoli, i follicoli è un po' come vedere, ricordano un pochettino i baccelli, però sono lisci, quindi sono proprio dei fusi sostanzialmente, che a maturità si aprono a metà e rilasciano dei semi con della lungine attaccata, un pochino tipo quelli dei pioppi, che servono a far volare i semi lontano. E un'altra cosa curiosa appunto è che sia gli oleandri sia il falso gelsomino appunto fanno questi frutti, quindi quando capita di vedere una o altra specie che portano i follicoli sono effettivamente identici come struttura ed è sempre il fatto che appartengono alla stessa famiglia. Bene, molto interessante. La battuta sulle sarisse che ti dicevo, le sarisse erano queste lunghissime lance che utilizzavano i macelli in battaglia e non si lanciavano, come facevano invece altri eserciti, ma erano lunghe circa 6 metri e per la battaglia appunto si tenevano con le mani in formazione. E quindi le falangi macedoni erano questi porcospini, potremmo dire, ben armati, in grado appunto di reggere qualsiasi attacco frontale. E mentre sui lati invece operava la cavalleria. E grazie a questa incredibile arma, alla flessibilità appunto di la cooperazione tra queste due armi, tra appunto la cavalleria e la falange, che Alessandro riesce a sbaragliare senza troppa fatica le ben numerose forze contro cui ha dovuto combattere per molto tempo. Mentre uno studioso che parla dell'Uleandro è Teofrasto. Per capire chi fosse Teofrasto, vale la pena ricordare il maestro di Alessandro Magno, Aristotele. Alessandro, infatti, giovanetto, era stato appunto abituato all'arte della guerra, alla ginnastica, e si può dire che andasse matto solo per queste due cose. E anche per questo il padre decide di affidarlo al più grande studioso, più grande filosofo dei suoi tempi, un uomo originario di Stagira, Aristotele. E Aristotele riesce a piegare l'animo irruento del giovane alle leggi della logica e della dignità umana. In particolare, Filippo avrebbe detto ad Aristotele di essere fiero di avere un figlio, ma di essere ancora più felice che il proprio figlio sia nato nell'epoca in cui ha vissuto appunto Aristotele stesso. E per ringraziarlo del tempo dedicato al principe macedone, gli regala il cosiddetto Ninfeo, che è una località estremamente amena, piacevole, non lontano dalla reggia di Pella, nella quale Aristotele appunto soggiornava, studiava e si dedicava anche appunto all'insegnamento del giovane Alessandro. Tra le materie a cui Alessandro viene affidato vi è sicuramente la medicina, secondo Plutarco. Medicina intesa non solo come conoscenza del corpo, ma anche dell'animo umano. Infatti i saggi, gli antichi, ritenevano che l'equilibrio si riuscisse a ottenere non solo tramite il rispetto del corpo, quindi un corpo che veniva rispettato perché conosciuto, ma anche indagando la natura interiore del proprio spirito. Quindi questo è il modo per arrivare all'equilibrio. Inoltre un altro storico ci dice che sotto il cuscino Alessandro tenesse un pugnale, naturalmente, in caso di evenienza, ma anche una copia dell'Iliade. E l'Iliade veniva ritenuta da Alessandro un eccezionale manuale di guerra, appunto perché portava le virtù degli antichi e anche il loro senso dell'onore, cosa che Aristotele aveva abituato sicuramente. Inoltre, Alessandro più volte ha dichiarato di amare il maestro come un padre, quindi amava suo padre perché gli aveva dato la vita, ma amava Aristotele perché gli aveva insegnato quelle virtù che fanno la vita, che fanno che sì che la vita sia degna di essere vissuta. I due resteranno sempre in contatto, sebbene questo affetto naturalmente crescendo si affievolirà, ma Alessandro non mancherà mai di mandare lettere missive in Grecia, anche ad Aristotele, e di dirsi pronto a leggere qualsiasi nuova opera sarebbe stata prodotta dalle mani dell'esperto maestro. E quando Aristotele è ormai prossimo a spegnersi, si dice, almeno la tradizione vuole, che abbia detto una frase più o meno di questo tenore: il vino di Rodi e quello di Lesbo sono entrambi buoni, ma quello di Lesbo è più dolce. Infatti aveva due pupilli, due tra i suoi allievi migliori, un certo Eudemo di Rodi e un certo Teofrasto invece di Lesbo. Quindi alla fine il suo giudizio nasce e cresce e corre e decide appunto di scegliere Teofrasto come suo erede. Molti avrebbero detto che se non ci fosse stato Aristotele, quel periodo sarebbe stato conosciuto come l'epoca di Teofrasto. Tra l'altro, Teofrasto non era veramente il suo nome, era un soprannome, cosa che era abbastanza comune all'epoca. Anche Platone non si chiamava veramente Platone, ma era ad indicare l'ampiezza o delle spalle o della sua fronte, a sottendere una mente molto sviluppata. Teofrasto invece voleva dire, questo soprannome, parlatore divino, appunto a sottolineare la sua enorme capacità di eloquio, la sua eloquenza sviluppata. Il suo vero nome sarebbe stato Tirtamo e anche lui era originario dell'isola di Lesbo, isola che aveva dato i natali alcuni secoli prima a una celeberrima poetessa, a Saffo. Oltre a ciò, ricordiamo Teofrasto naturalmente per altro. Infatti era uno scienziato e amava la botanica. Il suo interesse era estremamente vivo per questa materia. Si dice che abbia catalogato più di 500 specie diverse di piante. Inoltre, naturalmente, aveva anche altri interessi. Si occupava di storia delle pietre, dei minerali, studiava le stelle e anche l'essere umano. In particolare avrebbe scritto i cosiddetti caratteri, un'opera nel quale attribuiva a ciascun tipo di uomo un difetto particolare. Naturalmente però le piante restano il suo interesse principale. Scrive un'opera dal titolo Storia delle piante, molto semplice da intuire quale fosse l'argomento, e un'altra invece sulle cause delle piante. Era così apprezzato che Aristotele appunto gli lascia in eredità la sua biblioteca, la sua scuola, e verranno ad ascoltarlo qualcosa come 2000 studenti, solo per Teofrasto, solo per lui. Quando poi dei suoi avversari lo citeranno in giudizio per eresia, gli ateniesi insorgeranno e faranno sì che l'accusa venga ritirato. Lo studioso si spegnerà alla tarda età di 85 anni, e quando ciò accadrà la città chiamerà il lutto cittadino. Teofrasto nei suoi scritti inoltre cita la nostra pianta. Infatti dice che appartiene a quelle piante sempreverdi e la ricorda come una Daphne selvatica e lo oppone invece alla Daphne, che invece è un'altra pianta. Comunque anche lui l'ha citata e anche lui appunto racconta che alcuni animali, almeno non uomini, sarebbero stati appunto colpiti dall'avvelenamento per questa pianta. Esatto, infatti l'oleandro è famosissimo come pianta ornamentale, ma ancora più famoso come la pianta ornamentale velenosa, cioè proprio gente che dà fuori di testa per il fatto che non puoi neanche toccare l'oleandro che muori. Quindi principalmente l'oleandro, se lo tocchi, non ti fa bene perché le foglie sono abbastanza appuntite, quindi in generale non è proprio simpaticissimo. Però l'oleandro contiene dei glicosidi cardiaci, cioè molecole che hanno un effetto tossico su il sistema circolatorio e il cuore, e molto, con molta fantasia, principalmente la sostanza contenuta si chiama oleandrina, perché chiaramente descritta sull'oleandro viene chiamata oleandrina. Quindi tutte le parti dell'oleandro sono tossiche perché tutte contengono oleandrina. Addirittura il contatto con la linfa può causare reazioni cutanee, e tutte le apocinacee, tutte le foglie delle apocinacee, quando rotte, emettono lattice biancastro, che effettivamente può irritare la pelle. E addirittura dell'oleandro viene anche sconsigliato di inalare le ceneri. Poi ora mi chiedo chi dia fuoco all'oleandro inalando le ceneri, però questo... pensavo di farlo dopo il nostro episodio, quindi non fumatevi l'oleandro, questo sicuramente evitatelo. Mentre per ingestione l'oleandro necessita di ingerire grandi quantità di foglie, ok? Non è che se per sbaglio sto potando l'oleandro mi entra una foglia in bocca, sto morendo, cioè non è questo il livello, ok? Le conseguenze dell'avvelenamento da oleandrina sono la diarrea, il vomito, l'aritmia e la morte. Chiaramente alla fine velenoso lo è, però con un pochino con granus salis non è proprio così diretto, ok? Addirittura l'oleandrina è una molecola talmente stabile che si è visto che nel compost fatto con foglie di oleandro, quindi il compost è quel processo per cui io accatasto dei residui vegetali con un determinato metodo e piano piano fanno quello che fanno in natura, quindi vengono decomposti e diventano terricciato, diventano terriccio, ok? Addirittura dopo un anno che io ho compostato le foglie di oleandro trovo ancora l'oleandrina, perché chimicamente la ritrovo ancora nel compost, quindi è una molecola molto stabile. Questo però non deve allarmare, perché se anche io poi coltivo piante destinate al consumo in compost contenente l'oleandrina non succede niente, nel senso che le piante non hanno la capacità di assorbire l'oleandrina contenuta nel terriccio in cui vengono coltivate, quindi questo non è problematico. Ma caratteristica interessante di questa tossicità dell'oleandro sono il fatto che pare che possa avere attività insetticida contro determinate specie, quindi può essere utile per la coltivazione, in particolare se visto della canna da zucchero e degli agrumi, e ci sono anche specie di insetti in natura che si nutrono di oleandro, sono capaci di immagazzinare l'oleandrina nei loro tessuti, nel loro corpo, e diventare così inappetibili agli uccelli, quindi come dire, qualcuno ha trovato il modo di utilizzare la pianta a proprio vantaggio. Inoltre, casi un po' curiosi legati sempre all'attività sugli animali che ha l'oleandrina, è il fatto che pare che in antichità venisse utilizzata contro i morsi di serpente, quindi avessero trovato un uso terapeutico dell'oleandrina, e addirittura anche contro le ulcere e la lebbra. Poi ora probabilmente contro la lebbra hanno provato di tutto, quindi probabilmente funzionava tutto. E la cosa pericolosa in realtà è che oggi, specialmente online, si è diffusa la credenza che l'oleandro sia una pianta medicinale, in virtù proprio del fatto che in antichità in medicina tradizionale qualche uso ce l'aveva, ok? Con determinati metodi di quantità, eccetera. Quindi ci sono persone, soprattutto malati oncologici o malati con malattie cardiaci, cardiopatici, eccetera, che tentano di curarsi con l'oleandro utilizzando ricette trovate online. Ecco, questo è proprio il caso in cui queste cose non sono vere, e soprattutto lì poi ci crede che l'oleandro è velenoso, ma probabilmente anche cercassi di farlo con il Ficus Benjamin che ho in salotto, qualcosa mi succede. Ok, non, quindi no. Mentre l'oleandro, appunto, per noi è famoso soprattutto come pianta ornamentale, cioè viene utilizzato per quello da sempre, tant'è che addirittura in vari affreschi pompeiani è raffigurato l'oleandro, quindi si vede, cioè è proprio bello in virtù dei suoi fiori, del suo aspetto, eccetera. Poi essendo sempre verde, come dire, falso, anche in inverno c'è qualcosa, quindi proprio famoso da sempre. E una cosa molto curiosa, sempre sull'oleandro, a livello sempre nell'uso in varie culture, pare che alcune culture sahariane, nel Sahara occidentale, sempre zona di cui originale l'oleandro, la cenere di oleandro venisse mischiata al nitrato di potassio per fare polvere da sparo. Quindi, così, è una curiosità legata a usi che benefici, bene più o meno, usi utili che venivano fatti con l'oleandro. Poi, ecco, diciamo che dipende da come uno usa la polvere da sparo, anche se, come sempre. Fateci fuochi d'artificio, non le pallottole, però vabbè. Quindi potremmo un po' tirare le somme di questa nostra chiacchierata, sì, e concludere anche soffermandoci su come si è cambiato il mondo dopo l'arrivo di Alessandro Magno. Infatti, dopo la scomparsa del Macedone, il mondo non è più lo stesso. Un impero secolare come quello persiano è stato conquistato, abbattuto e poi ricostruito. Mentre in Grecia arriva la cultura e la tecnica dall'Oriente. L'India, inoltre, con l'arte del Gandhara, è una manifestazione, un sintomo dell'incontro felice con la civiltà occidentale. Inoltre, le riforme politiche di Alessandro hanno avuto un impatto enorme fino all'Estremo Oriente, e ancora le sue traversate sulle catene montuose hanno aperto nuove vie commerciali, di commercio, di scambi. Le città che ha fondato, molte a suo nome, abbiamo visto anche che ha ricordo di amici caduti o di animali caduti, sono diventati poi impori intorno ai quali è nata e si è sviluppata la vita civile di intere comunità, tuttora, grazie appunto a quei centri abitati fondati all'epoca. E la via che il suo ammiraglio Nearco aveva aperto sul mare divenne una famosa rotta commerciale tra l'India e Babilonia. Il greco diventa la lingua comune, la cosiddetta Koinè, una lingua che veniva insegnata, naturalmente semplificata, ai ragazzini di ogni angolo di questo grandissimo territorio. Inoltre l'ellenismo, proprio questo periodo di 300 anni che segue la scomparsa del condottiero macedone, diventa uno stile universale della civiltà dell'epoca tra il IV e il III secolo a.C. e il vuoto di potere che lui lascia fa sì che si vengano a creare diversi regni, i cosiddetti regni ellenistici, ognuno con a capo uno dei generali che l'aveva servito quando appunto aveva iniziato la sua campagna. Vale la pena ricordare la dinastia dei Tolomei nel Regno d'Egitto, e Cleopatra, la famosissima regina d'Egitto, è appunto uno dei discendenti di Tolomeo, uno dei generali di Alessandro Magno. Sua è la speranza e il desiderio indomabile di avventura, e ancora quello di riuscire a far vivere un mondo nuovo, nella sua immaginazione, nel suo sogno, che potesse arrivare, pensa, dalle colonne d'Ercole fino alla Valle dell'Indo, quindi dal Portogallo, dalla Spagna fino all'India, e questo territorio unico, unificato, potesse essere appunto casa di un unico popolo, un popolo anch'esso unificato. Quindi per lui conquistare non era sottomettere, ma unire. e si faceva appunto alfiere di una realtà nuova. È stato quindi, al netto delle, sicuramente ci sono state distruzioni, devastazioni, persone appunto che hanno trovato una fine tragica, però è, d'altra parte invece, la parte positiva, è stato sicuramente un profeta dell'uguaglianza tra i popoli, anche innescando la repulsione di quei macedoni che avrebbero voluto gestire tutti da solo, ma è stato anche molto pragmatico. Questa unità, questa uguaglianza permetteva appunto di reggere un impero così vasto. Tra le ambascerie che lui aveva ricevuto a Babilonia c'era quella anche di una piccola città che si stava espandendo nell'Italia centrale, una certa Roma, che però ancora non si conosceva così bene. E appunto questo processo di assimilazione e di tolleranza sarà poi ripreso dai Romani, creando una nuova epoca, una nuova era nella storia d'Occidente. Anche dopo morto, Alessandro continua a vivere nelle storie. Persiani e indiani si sono sicuramente impossessati della sua figura, ma anche in Occidente questo è avvenuto. E pensa che ci sono stati capolavori di letteratura nei quali si racconta di Alessandro che viene collocato in un barile e poi posizionato nel fondo del mare alla ricerca di un continente subacqueo sperduto, un regno appunto simile ad Atlantide. O ancora ci sono affreschi dipinti che dimostrano una spedizione di Alessandro alla ricerca del cosiddetto Paese dell'Oro, dove ci sarebbero stati degli uomini acefali, quindi gente che andava perfettamente in giro ma senza testa, che aveva quindi gli occhi e la bocca sul tutto. Quindi, concludendo con questa immagine molto futurista, potremmo dire che le persone hanno poi ritenuto che i confini della Terra fossero troppo stretti per Alessandro e quindi creare delle opere che potessero avvicinarsi alla moderna fantascienza. Bene, sicuramente nei giardini orientali, così come quelli pompeiani, Luleandro aveva il suo spazio e speriamo di avervi raccontato qualche curiosità interessante anche oggi. E oggi è nei giardini di tutto il mondo. Assolutamente. La cosa proprio per chiudere in bellezza dopo tutta questa tolleranza e, come dire, rettitudine d'animo, chiudiamo su Luleandro con una donna californiana che, come dire, aveva in particolare antipatia al marito, e questo dà anche indice appunto poi di quanto possa essere effettivamente velenosa come pianta. Decise di dargli del frullato di oleandro da bere per farlo fuori. Chiaramente l'uomo porello finì in ospedale e sopravvisse, se non che poi lei gli mise l'antigelo in una bibita sportiva e lo fece definitivamente fuori. Però, come dire, l'invito... Non era colpa dell'oleandro. Esatto, non era colpa dell'oleandro. Sicuramente gli ha fatto male, però poi ci ha rimesso le penne con l'antigelo. Quindi, come dire, appunto, coltiviamolo, è bello, è molto utile come pianta in varie situazioni. Non, come dire, stiamo attenti a prenderci le foglie negli occhi perché fanno male, ma, come dire, non urliamo allo scandalo quando troviamo un oleandro in asilo o qualcosa del genere. È chiaro, è chiaro. Perfetto, allora questo era tutto per oggi con lo sto Leandro. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questa è In Sala Pianta. Prima di andare, un ultimo annuncio, la prossima domenica ci sarà il nostro ultimo episodio, quindi l'ultimo di questi 5 episodi a proposito di piante killer che trovate sia sui vostri balconi sia dall'altra parte del mondo. E quest'ultima frase è un po' uno spoiler. Esatto, e alcune che vi auguriamo di non trovare mai. Di quello che sarà. Inoltre oggi ci tenevo a fare un saluto molto rapido ai miei studenti del Galileo Galilei, gli studenti della seconda informatica F, della seconda MA e della seconda MB. Naturalmente Alessandro Magno è stato l'argomento di quest'anno e spero di aver un po' dimostrato che ci sono veramente tantissime cose da dire e che vale sempre la pena poi approfondire quanto si dice in classe. Ciao! Ciao a tutti!